Made in Shia. Ghazi al-Yawar è il nuovo presidente dell'Iraq, Iyad Alawi è il nuovo primo ministro. Lo sceicco Mohsen al-Yawar è capotribù dei Kamar, sciiti e sunniti, e nel 2003 è tornato in Iraq da Londra, dove ha passato gli ultimi 12 anni, partendo al momento dell'invasione irachena del Kuwait. Dalla propria città natale, Mosul, regna su 3 milioni di iracheni, ma anche su popolazioni residenti oltre confine, in Arabia Saudita, in Siria e in Kuwait. Dopo la caduta di Saddam, nella primavera 2003, il capo dei Kamar domanda al nipote Ghazi al-Yawar, che dirige una florida azienda di telecomunicazioni in Arabia Saudita e ha studiato ingegneria a Washington, di tornare anche lui in patria. Ghazi, all'epoca uno sconosciuto businessman 46enne, ubbidisce e viene miracolosamente nominato nel consiglio di governo ad interim iracheno. Impara in fretta, instaura buone relazioni sia con gli sciiti che con i sunniti e, malgrado sostenga l'unità irachena, si pronuncia in favore di un'autonomia federale per il Kurdistan, procurandosi l'appoggio dei dirigenti curdi. «Sono di confessione sunnita», spiega. «Nato a Mosul, la mia famiglia ha sempre avuto relazioni eccellenti con i curdi e quando ero piccolo mia madre mi portava a visitare sia i santuari di Najaf e Kerbala che le moschee sunnite di Baghdad e la chiesa della Vergine Maria». Molto più prono al volere statunitense, Iyad Alawi, sciita, laico di 58 anni, anche lui di ritorno dall'esilio londinese e paladino di quella riconciliazione nazionale in chiave democratica che gli USA predicano fin dall'inizio e che secondo molti osservatori e secondo lo stesso Saddam è una chimera. A partire dal 1 luglio prossimo sarà primo ministro, posto chiave per condurre il paese alle libere elezioni del gennaio dell'anno venturo. Fin dall'inizio del suo mandato nel Consiglio di Stato di Interim ha avuto un ruolo chiave nella gestione dei contatti tra l'MI-16, i servizi segreti britannici, la CIA e tutto quel che restava dell'esercito, la polizia e i servizi segreti di Saddam, riuscendo tuttavia a conciliare il potere militare con delle cordiali relazioni intrattenute con le rappresentanze religiose sunnite e sciite e con i rappresentanti politici curdi, proprio dove l'ex uomo di Washington, Ahmed Khalabi, era stato riuscito a farsi detestare. La bozza di risoluzione che gli Stati Uniti cercano di fare approvare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU è comunque impegnata sulle capacità di Alawi e si divide soprattutto in due parti. Dare la possibilità alla forza multinazionale di restare in Iraq, i 160.000 uomini guidati dagli USA dovrebbero poter rimanere almeno fino al 2006, per questo è richiesta capacità di mediazione da parte di Alawi. E infine il fatto di poter giocare un ruolo principale e continuarlo a giocare fino alla fine del proprio mandato. Le Nazioni Unite speravano di avere un ruolo di primo piano nella composizione del nuovo governo, ma malgrado le apparenze non l'hanno avuto, tanto da spingere Annan ad affermare, viste le circostanze, credo che Brahimi abbia fatto il meglio in suo potere. Senza aver tratto alcun insegnamento dagli errori passati, il nuovo governo si ricalca sul vecchio. Un governo indipendente, democraticamente eletto, si vedrà solo tra 2 anni. Auguriamoci che qualche evento blocchi il quotidiano stillicidio di uomini e risorse. Da Zurigo, Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.